Italia in controluce. Buongiorno e buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi, siete sintonizzati su Radio 24 e qui inizia dunque il racconto della cronaca italiana e dell'Italia secondo Italia in controluce. A Fadalto, in Veneto, nella valle tra le province di Belluno e Treviso, ormai da settimane, misteriosi boati terrorizzano la popolazione. I sismologi tendono ad escludere l'eventualità di un terremoto, ma il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, a Radio 24, dice che il rischio c'è, perché in zone come queste bisogna sempre tenersi pronti. Il racconto di Maria Luisa Pezzali. I primi boati sono iniziati in ottobre, rimbombi sordi e profondi, accompagnati da vibrazioni più o meno forti. Si susseguono regolari a tutte le ore del giorno e della notte, a volte arrivano fino a 12 nell'arco delle 24 ore. Un suono quasi ancestrale che terrorizza la cittadina veneta di Fadalto, frazione di Vittorio Veneto, nella valle incastrata tra il Col Visentin e l'altopiano del Cansiglio, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno. Geologi e sismologi stanno monitorando il fenomeno per ora senza spiegazione. Puntano su presunti crolli di masse rocciose in profondità oppure sullo scorrimento di fluidi sotterranei nell'area del vicino Lago Morto, alimentato dai bacini carsici tipici di questa zona. L'area è a rischio sismico 2 su una scala che va da 1 a 4, dove l'1 rappresenta la massima pericolosità. Gli scienziati invitano alla calma, escludono l'eventualità di un terremoto, ma la gente ha paura. A Fadalto non si parla d'altro, ci conferma Giuseppe Berton, uno dei 7 sismografi mobili installati per le rilevazioni, è a casa sua. Preoccupazione perché ancora non si sa di preciso cosa possa essere che provoca il fenomeno. Siamo in contatto tra le varie famiglie del paese, qua ci parliamo, ci scambiamo i dati, chi sentiva un'ora, chi sentiva un'altra, perché ogni tanto si riusciva anche a dormire di notte, no? E allora magari chi sentiva mentre era sveglio in un periodo, o magari chi andava a lavorare o chi era a casa sentiva in un altro periodo. Qualche giorno fa, in visita in Veneto, il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli, ha detto chiaramente che il fenomeno non va sottovalutato, che il rischio terremoto c'è e che i cittadini si devono preparare tenendo in casa il kit precauzionale con pila, acqua e cellulare carico. Dichiarazioni che hanno sollevato molte polemiche, alle quali il prefetto risponde così. Ho espresso due elementari concetti. Il primo è che la comunità scientifica su questo argomento non ci stava fornendo delle indicazioni chiare e inequivoche. Ad oggi nessuno è nella condizione di poter dire esattamente la natura, l'intensità, le ragioni vere e le prospettive di questo fenomeno. Ho soggiunto, ma lo farei in ogni altra realtà del paese che è classificata in zona 1 o in zona 2, che i cittadini debbono avere necessariamente consapevolezza del fatto di vivere in una zona a rischio sismico. Se il cittadino non è consapevole dei rischi a cui è esposto il territorio in cui vive, noi non abbiamo fatto un significativo passo in avanti rispetto a una seria opera di prevenzione. Se come nel caso in specie dei comuni di cui si parla per i cosiddetti boati di Fadalto, questo rischio è un rischio sismico che prescinde dal boato e dal verificarsi del boato, perché quella è una zona a rischio sismico 2 ed è la stessa classificazione con la quale era contraddistinto il territorio dell'Aquila allorquando avvenne il terremoto del 6 di aprile del 2009. Allora qui non si tratta di fare allarmismo, si tratta di dire al cittadino: guarda che tu stai in un territorio nel quale, come è avvenuto nel passato, così anche nel futuro si può verificare un terremoto, che non è precorso o preannunciato dal boato, che è una cosa completamente distinta e che può essere anche completamente distinta. Ma io dico a quel cittadino, come lo dico ai cittadini che abitano comuni in zona 1 e in zona 2, che la prima cosa che devono fare è verificare se l'abitazione nella quale stanno è un'abitazione vulnerabile o non vulnerabile. e anche di prendere elementari precauzioni, quelle precauzioni che in altre parti del mondo, in California piuttosto che in Giappone, dove hanno un'altissima consapevolezza di essere in territori sismici, fanno. Cultura della prevenzione, dunque, soprattutto verifiche dettagliate sulla vulnerabilità degli edifici. Le stiamo completando, ci dice il sindaco di Vittorio Veneto, Gian Antonio Darè. Ma i risultati sono allarmanti. Noi abbiamo, diciamo, delle scuole nuove, perché inaugurate l'anno scorso, che sono chiaramente con tutte le normative sismiche perfette. Abbiamo però due scuole che non sono a norma sismica, perché sono delle scuole che sono ancora quelle dell'Entennio, quindi non hanno le caratteristiche. Non abbiamo i soldi per metterle a norma, non abbiamo soldi per farle nuove, e così è. Però i ragazzi continuano ad andare a scuola. Faccio? Non posso mica sospendere. Neanche il mio municipio è a norma sismica, quindi noi abbiamo un centro storico in cui ci sono abitazioni, chiese che vanno dal 1200, dall'anno 1000 in su, 1500. Almeno due scuole, dunque, oltre al municipio e ad altre abitazioni, in caso di terremoto di una certa gravità non resisterebbero. Una situazione che purtroppo si ripete in altri comuni italiani a rischio sismico. Che cosa fare in questi casi? Ancora Gabrielli. Allora, innanzitutto ci sono dei contributi che, a partire dall'esercizio 2010, a seguito proprio di una norma contenuta nel decreto Abruzzo, ha messo a disposizione 1 miliardo di euro spalmato su 7 anni per interventi che le regioni dovranno andare a fare sugli edifici pubblici strategici e anche sugli edifici privati che in qualche modo hanno un riverbero sulla sicurezza complessiva. Le risorse, per quanto poche siano, cominciano a essere correttamente finalizzate. Quindi consiglio innanzitutto al sindaco di cominciare a fare una sorta di classifica delle priorità, mettere in sicurezza il proprio edificio comunale, mettere soprattutto in sicurezza le scuole. Chi vive a Fadalto però non solo è spaventato, è anche arrabbiato, perché queste cose si sono scoperte solo ora. Non sapevamo neanche di essere in zona sismica 2, ci dice Giuseppe Berton. Queste cose qua dovevano farle prima, perché se la zona era considerata ad alto livello sismico, sfiderei chiunque a partire dal mio paese, arrivare tutta la zona del comune di Vittorio Veneto, a vedere quanti sapevano che c'era un livello 2 in zona. E quanti sanno cos'è un muro maestro, dove mettersi in caso di pericolo di terremoto? Sì, queste cose qua dovevano essere fatte prima che succedesse tutto questo, perché se non succedeva l'apice dei boati in Fadalto, si continuerebbe a fare la solita vita e si vivrebbe in una zona altamente sismica senza che nessuno lo sappia, insomma. Le rilevazioni intanto proseguono, sono coordinate da Pierluigi Bragato del Centro di Ricerche Sismologiche dell'OGS di Trieste. Sulla base di queste informazioni che abbiamo raccolto, diciamo che le cause, tipo chiamiamole così, idrogeologico, sono quelle più che riteniamo più probabili. Quindi siamo nel caso di colpi di ariete, quindi condotti che in qualche modo si riempiono e qualche volta danno un colpo che poi genera vibrazione, oppure acqua che va a alterare le caratteristiche di stress all'interno delle rocce che provocano poi queste microscosse. E una cosa che tendiamo a escludere, non c'è la certezza, ma tendiamo a escludere, è che questi fenomeni abbiano relazione con, diciamo, i terremoti tettonici, perché i terremoti profondi, quelli che creano e danno danno, e tipo terremoto dell'Aquila, insomma, quella sismicità di quel tipo è attorno ai 10 km, quello che osserviamo sono fenomeni molto più superficiali e quindi tenderemo ad escludere questo tipo di spiegazione. Sull'eventualità di un terremoto gli scienziati dunque tranquillizzano, lo stanno facendo da settimane. Ecco il nodo dello scontro con il capo della Protezione Civile, Franco Gabrielli. Questa è una bestemmia, perché se i terremoti non si possono prevedere da un punto di vista del loro verificarsi, è esattamente vero anche il contrario, che non si possono prevedere e che non possano verificarsi. La Protezione Civile locale intanto lavora a un piano che prevede l'evacuazione della popolazione, altra regola che in zone come queste andrebbe sempre osservata, boati o non boati. Il responsabile veneto Roberto Tonellato. i comuni dispongono di loro piani di gestione emergenziale e di protezione civile. Stiamo facendo un lavoro di assemblaggio di questi piani per meglio eventualmente capire come in un sistema più articolato e complesso possano intervenire in forma coordinata per tutti i comuni e determinate azioni rivolte a eventi che possono diciamo succedere da qui a 100 anni, voglio dire, in quell'area. L'area è sensibile e va monitorata in questi termini. Bene, grazie a Maria Luisa Pezzali. E tutto questo accade proprio nelle ore in cui in Abruzzo la popolazione continua ad avere molta paura. Anche stanotte c'è stata una scossa di 3.1 gradi e al di là delle conseguenze, naturalmente non ci sono state né vittime né feriti, ma i problemi anche in Abruzzo restano. Questo sarà anche uno dei temi e una delle inchieste prossime di Italia in Conto Luce. Intanto vi saluta Daniele Biacchesi, cercateci naturalmente su Facebook, siamo su Twitter, su radio24.it, dove potete trovare il nostro blog. Domani alle 6.30 torniamo su Radio 24.